your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these noi siamo l'inferno, il male, il bene, il punto di non ritorno dal profondo del purgatorio. Noi siamo il futuro che viene, signore, signori, terroni, figli di contadini con ancora dei valori. Siamo fuori, italiani, latini, uomini al di fuori e dentro eterni bambini. Noi diamo storie nuove, esperti Latin lover, tutta roba nostra, originali, niente cover. Noi siamo l'opposto, il moro, il biondo, il centro di confronto che ti attira in un secondo. Noi siamo mal di pancia, pesci, bilancia, noi due rovina situazioni, figli di generazione anni 70 e 80, mai messi a 90, so le mie radici e background non ci manca, perennemente al verde se la canta, con la vita che va in bianco e con il rosso in banca. Noi siamo una droga, pelle, cuore e anima, noi siamo la prova che sta roba ti contamina, siamo geni usciti dalla tua lampada magica, siamo tuo blackjack, siamo l'asso nella manica, siamo squilibrati, qualcosa da ridire, noi siamo come l'erba cattiva, duri a morire. Noi siamo diretti, indifferenti e complimenti. Noi rischiamo tutto, famiglia coi parenti. Noi siamo diversi, gemelli, da sempre gli stessi. Né destra né sinistra, ma direttamente inversi. Noi siamo rap, rock, pop, jazz, swing, folk, punky sopra il beat come Curtis Blow. Noi siamo nel tuo iPod, dentro al tuo PC. Siamo nel tuo Mac, 16 non in HD. Noi siamo bestie rare in continuo movimento. Noi siamo Jolly e Diva, musica senza tempo.